radio. Questo microfono non funziona. La mia voce non è amplificata, è soltanto per registrare tutto il radio, perché siamo in diretta radio, poi si faranno i podcast su Radio ZM. Quindi è questo il motivo. Un altro paio di cose, proprio per anche distruggere un po' la cosa del non siamo in classe, siamo una serata in cui vogliamo tutti parlare di filosofia insieme. Potete interrompere me e anche tutte le altre persone che staranno parlando quando volete per opinioni, domande, magari ci sono termini non chiari o non siete d'accordo, tutto secondo me molto libero. E l'altra cosa è, io parlerò un pochino, mi sono preparata un po' di cose da dire, se sto parlando troppo, vi annoio, potete anche dirmi passiamo a qualcos'altro, ci sono altre persone che magari hanno cose interessanti da dire. E l'ultima cosa è anche il... Va bene così, perfetto. E l'ultima cosa che volevo dire è, appunto, visto che è sera e magari ci dobbiamo svegliare domani, eccetera, controlliamo l'orologio, se vedete che è tardi possiamo anche dire andiamo a dormire. Visto che ci sono un po' di persone che è la prima volta che partecipano a questo progetto è nato come idea di portare la filosofia politica in uno spazio sociale, proprio perché si pensa che la filosofia sia qualcosa che sta nelle università o nelle classi, ma che non sia accessibile, cioè bisogna avere tanti strumenti per capire un testo filosofico. La nostra idea è provare a studiare insieme, parlarne insieme, poi magari utilizzare anche le persone che la studiano, quindi tipo io, ma oppure chi addirittura la insegna, tipo altre persone qui in questa sala, per renderla appunto accessibile. E anche perché, visto che la maggior parte delle persone qua dentro si interessa di politica e molte fanno anche politica, si basano su dei concetti che magari non hanno mai analizzato, che nascono dalla filosofia politica, quindi la necessità anche di non soltanto utilizzarli nelle nostre pratiche, ma di farli, cioè di studiarli, di analizzarli, di capire se veramente siamo d'accordo, se no, se c'è bisogno di rinnovarli, quindi provare a studiarli e non soltanto metterli in pratica nelle nostre vite, anche per vedere se le basi ci piacciono, diciamo. Motivo per cui abbiamo scelto dei concetti fondamentali in questo percorso e oggi, come quarto episodio, c'è il concetto di meritocrazia. Allora, il concetto di meritocrazia possiamo dire che forse tra quelli che abbiamo scelto è tra i più pregnanti nella quotidianità, proprio perché la nostra società si basa molto sulla valutazione del merito e supporre il merito come lo strumento valutativo per eccellenza, per poi dire ok, hai preso un bel voto, quindi sei meritevole di passare avanti, sei meritevole di vincere qualcosa, sei meritevole, se sei uscito da una buona università con un bel voto, di ricevere uno stipendio molto più alto. Il tuo merito viene calcolato anche in base a delle cose non proprio chiare. E l'idea che abbiamo avuto è, uno, mostrare come la meritocrazia sia appunto un concetto estremamente quotidiano, ma che non viene mai messo in discussione. È posto lì come assioma che funziona nella nostra società e diciamo ok, bella, esiste, ma non stiamo a davvero, uno, analizzare le implicazioni, due, da dove nasce, con chi idea, come, se davvero funziona o è fallace. Motivo per cui appunto abbiamo scelto questo concetto. E poi in realtà io credo di star parlare con tutte le persone che un minimo di queste cose almeno una volta nella vita se le sono chieste o ne abbiano parlato con altre persone, però ho pensato a delle domande semplici che si potrebbero fare per mettere in evidenza appunto a volte le contraddizioni. Uno, appunto, considerando anche che molti di noi fanno ancora l'università o che hanno finito da poco il liceo, un voto a scuola o in università è davvero la rappresentazione del merito di qualcuno, del fatto che abbia raggiunto un determinato livello? Un voto dimostra il valore di una persona? No, la risposta è condivisa, però per dire, all'interno della meritocrazia il voto è uno strumento per valutare il merito di qualcuno. Se si esce dall'ambito scolastico, il merito è valutabile in base allo stipendio che prendi, in base alle case che possiedi, in base alle macchine che hai, il merito è valutabile come le persone più meritevoli sono davvero quelle che ce la fanno. E altra cosa che invece stavo pensando è paradossale che noi pensiamo che siamo all'interno di un sistema, cioè non noi, però la stragrande maggioranza delle persone ritiene che all'interno di una democrazia in cui in teoria tutte le persone sono uguali, tutte le persone hanno le stesse opportunità, le persone ai vertici sono sempre le stesse con le stesse caratteristiche, solitamente uomini bianchi. A volte anche donne bianche, però soprattutto uomini bianchi. Questo significa che tutte le persone nere non hanno delle capacità, non sono meritevoli di arrivare a determinati vertici. Poi ovviamente io sto parlando della società in cui viviamo, non è detto che siamo d'accordo sull'esistenza di questi vertici, però è per dire nella situazione attuale. Queste sono un po' le domande che secondo me sono un po' l'humus di tutta la discussione che c'è dietro e che ci mostra quanto sia appunto impattante la questione del merito. Però volevo fare un pochino un'analisi più storica e in particolare la prima volta che è stato utilizzato il termine meritocrazia, ossia in una, possiamo dire, favola, no, in una favola no, in un romanzo distopico, in una storia, che è stato fatto da questo sociologo che si chiama Michael Young. Lui, oltre ad essere un sociologo, era anche un avvocato che ha avuto una storia un po' particolare, ossia lui era molto bravo a scuola, i suoi genitori erano artisti che quindi non gli potevano pagare l'università, ma neanche possiamo dire il liceo, e quindi una famiglia di ricconi inglesi gli paga l'educazione nelle sfere più alte e fonda questa famiglia un collegio per tutti quei ragazzi e ragazze meritevoli, ma che non possono permettersi l'istruzione. Beh, lui va avanti, diventa appunto un sociologo, un avvocato, scrive il manifesto del Partito Laburista negli anni 50 e oltre a tutto questo scrive questo testo che si chiama The Rise of Meritocracy nel 1959 e racconta questa storia, possiamo dire, che inizia in realtà, lui la ambienta nel 2030. E il motivo per cui fa questo è che parallelamente, effettivamente proprio nella politica inglese, erano state introdotte delle riforme dell'istruzione basate sulla meritocrazia. Era l'inizio della meritocrazia in Inghilterra ed erano questa riforma prevedeva che verso gli 11 anni bisognava fare un test che valutava l'intelligenza dei ragazzi e delle ragazze e che poi li direzionava verso tre tipi di scuole. La Grammar School, che è il nostro liceo che poi ti fa accedere all'università, e le altre due scuole sono una scuola cosiddetta manuale, quindi per imparare un mestiere, e poi una scuola di istruzione di base, quindi per imparare proprio, possiamo dire, le basi per vivere in una società. Questa è una riforma che c'è stata effettivamente in Inghilterra ed è funzionato così il sistema scolastico fino agli anni 70. Lui da sociologo vede la situazione e dice non sono d'accordo, come faccio a raccontare quello che secondo me causerà questo sistema? Scrivo una storia totalmente distopica ambientata nel 2030 in cui mostro gli effetti di questo sistema scolastico. È pienamente un romanzo distopico perché appunto è ambientato nel 2030 in una società totalmente folle all'alba di una grandissima manifestazione. Questa manifestazione sapremo come si concluderà soltanto al termine del libro, ma appunto siamo all'alba di questa grande corteo. Prima che avvenga questo corteo, lui racconta perché siamo arrivati a questa situazione. La situazione appunto è stata che sono state introdotte queste riforme dell'istruzione, sia nel romanzo che nella realtà, e andando avanti veloce nel tempo, queste riforme inizialmente sono accettate molto positivamente perché rendono la scuola gratuita, accessibile a tutto, in cui si può rifare questi test dell'intelligenza quando si vuole, anche da adulti, accedere quindi all'università quando si vuole, però piano piano creano in realtà due classi molto ben distinte, perché le persone che riescono effettivamente a passare questi test entrano all'università e diventano le persone ricche della società, che poi però il loro quoziente intellettivo, che è alla base di tutto questo gioco, diventa uno strumento per le assunzioni di lavoro, quindi soltanto le persone con un QI abbastanza alto possono accedere a determinate cariche, per sposarsi, solo le persone con un QI abbastanza alto possono unirsi con altre persone di un QI abbastanza alto per fare figli intelligenti, e così via, finché si creano due classi estremamente distinte, le persone intelligenti, io non sono d'accordo con niente di quello che sto dicendo, però per dire, le persone intelligenti, le persone stupide, le persone intelligenti sono ricche, le persone stupide sono povere, le persone intelligenti e ricche sono quelle migliori nella società, le altre invece non sono meritevoli. Questo però crea in realtà quello che era un sistema che doveva essere estremamente mobile, una cosa estremamente statica, perché poi il QI diventa una cosa genetica, perché se ti accoppi solo tra persone intelligenti, solo le persone intelligenti fanno figli intelligenti, secondo questa idea, e ereditaria, quindi ad un certo punto non si fanno più test dell'intelligenza, si dà per assodato che solo le persone di quella determinata famiglia abbiano un quoziente intellettivo alto, come se fosse una specie di sangue blu di nobiltà, e così si fossilizza la società. Il motivo per cui ci siamo a questa grande protesta nel 2030 è per, possiamo dire, un avvenimento particolare, ossia le donne delle più ricche e più intelligenti si rendono conto che questa cosa non funziona, perché loro da madri non sono disposte a far crescere i loro figli da delle tate considerate più stupide e quindi hanno intenzione di crescere loro e i loro figli, perché i bambini in teoria intelligenti hanno bisogno di stimoli solo da persone intelligenti. Ripeto, non sono d'accordo con niente di quello che sto dicendo, però questa era la situazione descritta nel romanzo. E quindi queste donne decidono di scrivere un manifesto per le persone della classe inferiore, dicendo che i motivi per cui loro, nella loro superiorità, ritengono che questo sistema non funziona. In primo luogo loro sottolineano che come donne non possono davvero utilizzare la loro intelligenza perché sono obbligate a stare a casa a crescere i figli, e quindi da un punto di vista del quoziente intellettivo, il quoziente intellettivo non considera ad esempio il lavoro di cura, il lavoro riproduttivo, ma soltanto quello produttivo nella società che ti fa diventare ricco. Niente, questa è la situazione. Loro scrivono questo manifesto in cui, se leggiamo i punti che sono riportati, sono del 58, ma alcuni sono molto attuali, del tipo non si deve dire che le possibilità sono per tutto, ma bisogna creare davvero gli strumenti per rendere delle possibilità aperte a tutto. Quindi, ad esempio, per persone che sono considerate di una classe meno avvantaggiata, non di dare a tutti i test uguali, ma ad esempio implementare determinate cose, o dare più ore, o permettere che tutti i corsi di approfondimento siano gratuiti. Comunque cose che per noi sembrano scontate, ma probabilmente negli anni 50 non lo erano. Questa è la prima volta che si è parlato del termine meritocrazia da un sociologo molto spaventato della riforma scolastica in Inghilterra. Facendo proprio un salto temporale e passando invece ai nostri anni, ci sono due testi che volevo affrontare. Il primo, entrambi scritti nel 2021, quindi post lockdown, post pandemia, ed entrambi che parlano di meritocrazia. Il primo è una critica alla meritocrazia statunitense, anche bella serrata, e l'altro invece è di un professore del San Raffaele di Milano, quindi dell'università qua, che in realtà ritiene che la meritocrazia sia un ottimo strumento e propone come migliorarlo. Ok, il primo testo è La dittatura della meritocrazia, sottotesto... questo testo è di Sandel, 2021, titolo La dittatura della demeritocrazia, sottotitolo Perché viviamo in una società di sconfitti e vincitori. In questo testo, che io ammetto di non avere letto tutto, egli procede a confutare la democrazia, cioè la meritocrazia americana. Poi sappiamo che l'Italia, per moltissime cose, come l'Europa e come molti dei paesi della NATO, ricalca su delle cose gli aspetti della struttura statunitense. Poi il nostro sistema di istruzione è diverso, ma certe caratteristiche portanti ci sono, in particolar modo ad esempio questa della meritocrazia. Lui scrive nel 2021, post Covid-19, e all'inizio del libro proprio sottolinea come è stata la pandemia che ha reso necessario per lui parlare di questo argomento, perché durante i mesi di lockdown, in cui i grandi spot politici erano: dobbiamo tutti e tutte seguire le stesse regole perché tutti e tutte siamo sulla stessa barca, in realtà ha dimostrato come non era così. Come? Questo immagino che in America, in cui la sanità è privata, è stato ancora più evidente, però credo sia stato evidente anche per noi che, ad esempio, fare smart working oppure fare l'università o il liceo a distanza in una casa piccola o in una casa grande ha fatto differenza, con una connessione wifi o meno abbia fatto differenza, con la possibilità di, che ne so, ordinarsi tutti gli sfizi che ci si voleva da Amazon o non farlo per niente, ha avuto una differenza, ma anche ancora di più rispetto alle cure, rispetto ai vaccini, rispetto al fatto che moltissime persone potevano banalmente dire ricevere medici privati a casa, mentre la maggior parte dei medici pubblici non usciva perché giustamente era sovraccarico. Comunque, come in America, non posso immaginare come sia stata sentita questa differenza, perché il sistema di welfare non esiste, però anche in Italia è stata sentita come differenza. Quindi per lui è stato un momento chiave per dire non funziona. La democrazia che sostiene che siamo tutti uguali in realtà ci ha mostrato in modo palese che non è vero. Perché non è vero? Perché non tutte le persone hanno davvero la stessa opportunità, oppure ce le hanno ma non potranno mai raggiungerle. Quindi lui fa uno studio di perché secondo lui la meritocrazia non funziona e in primo luogo che non abbiamo strumenti per valutare il merito. Perché un voto non è uno strumento per valutare il merito di una persona ad accedere a determinate cose, ma nemmeno i soldi lo sono, ma nemmeno il tipo di lavoro. Cioè se sei CEO di un'azienda non è vero che sei più meritevole di un insegnante. Altra cosa che studiando e preparando questo intervento mi ha sconvolto è che se ci consideriamo davvero gli stipendi che ci sono, sia qui che in America, ma in generale nell'Occidente, ci sono dei lavori estremamente fondamentali per la società, a partire appunto da insegnanti, infermieri, infermiere, operai, persone che lavorano nel sociale, che sono tutti lavori fondamentali, che sono pagati molto poco, mentre sono pagati uno sproposito lavori come l'influencer per una grande azienda. Qual è il merito? Dove sta il merito in questa cosa? Niente, nella mia modesta opinione. E Sandella sostiene proprio come, in primo luogo, il merito non è così facilmente valutabile. Se lo stiamo valutando, lo stiamo valutando nel modo sbagliato, appunto perché non è avere tante case, tante macchine, che ti dimostra quanto sei stato meritevole nella tua vita, e poi che spesso noi basiamo il merito e lo confondiamo sui talenti. I talenti sono qualcosa di totalmente accidentale, cioè io posso nascere con il talento a cantare, bella ci sono nata, mi è andata bene, un'altra persona è nata con il talento di memorizzare e processare velocissimamente i numeri, è un talento, non è valutabile come merito. È una bellissima qualità di una persona, nessun, né Sandel né io siamo mettendo in discussione questo. Ho toccato delle cose. Cioè, comunque, il talento e il fatto che magari qualche persona è più propensa a fare qualcos'altro è una cosa normalissima, giustissima, che appunto ci siamo nati e nate, però questo non significa che per questo sei da considerare più bravo, più importante di qualcun altro. E questa è la prima cosa, noi confondiamo il merito col talento. La seconda cosa che lui fa è analizzare, devo dire in modo abbastanza preciso e forse anche pesante da leggere, i discorsi elettorali della campagna presidenziale del 2017, quella in cui ha vinto Trump. Quindi analizza i discorsi di Trump, della Clinton, però anche di Biden, che in quel caso non correva come presidente, però era già lì, e di altri candidati e candidate, e vede come ci sono due cose fondamentali. Si parla sempre che l'America è nel lato giusto della storia perché è la più forte, quindi più brava e quindi più meritevole. E poi si fa una distinzione tra smart e dumb, tra intelligente e stupido, come nella storiella. E questo ha portato ad analisi. Il primo è che già proprio dall'inizio un po' della filosofia politica, non volevo dire questo, perché sappiamo che inizia con Platone, eccetera, anche prima, ma dall'inizio della riflessione sul capitalismo c'è sempre stata una strettissima correlazione tra capitalismo e dottrina protestante. Cosa fa l'America? L'America è un paese laico, però prettamente protestante. E ha, come sappiamo bene, preso molto su di sé la dottrina protestante. Quindi Sandel fa un'analisi a partire da Lutero, e poi in particolar modo il testo di Weber sulla correlazione tra calvinismo, teoria della predestinazione, e capitalismo. Quindi il fatto che per Dio qualcun di cui non sappiamo, perché noi ovviamente non sappiamo la volontà di Dio, ha dato una grazia, però per renderti meritevole di questa grazia ti spacchi di lavoro tutti i giorni per far vedere a Dio che se davvero hai questa grazia puoi accedere, sei davvero meritevole della grazia del paradiso. Questo, secondo Weber, ad esempio, ha instaurato la logica del spaccarsi la schiena, la logica della fatica, la logica del se lavoro tanto dimostro che sono meritevole e quindi ho l'accesso al paradiso. Questa è un po' la base, secondo alcuni teorici, della costruzione del capitalismo, cioè di come il capitalismo, oltre al sistema economico, è diventato proprio un sistema di pensiero, e come l'America l'abbia preso su di sé. Quindi è lo stato più forte? È lo stato più forte perché è il più bravo, perché è più meritevole e quindi, questo gli americani non lo diranno mai, però il sottotesto che c'era probabilmente 50 anni fa, abbiamo la grazia di Dio, stiamo facendo la cosa giusta, siamo dalla parte giusta della storia. E questo nella retorica americana è ancora molto presente, stanno facendo la cosa giusta. No, però questa è la lettura. E l'altra cosa invece è come c'è stata una polarizzazione nei discorsi politici, non più da giusto a sbagliato, ma da meritevole e non meritevole, da stupido e intelligente. E ad esempio Sandel analizza tutte delle dinamiche che non sono proprie nostre, sono ad esempio molto americane, che è la selezione per entrare nelle università dell'Ivy League, quindi tipo Princeton, Harvard e compagnia bella. Per farli tu devi prendere dei punteggi molto molto alti a questi test che vengono fatti, che sono le SAT, che sono test a crocette che in teoria dovrebbero dimostrare quanto sei intelligente, quante cose sai, e quindi che puoi entrare in questo tipo di università che costa i miliardi. Cioè, costa una cifra spropositata che poi magari ci impieghi una vita intera per ripagare questo debito. E la cosa che Sandel sostiene è che è un quarto della cioè degli studenti e delle studentesse che si applicano per entrare in un'università dell'Ivy League a entrare. Questo un quarto delle persone rappresenta i vincitori e le vincitrici della società americana. Sono coloro che diventeranno i futuri ricchi e ricche americane. Quindi rappresentano un quarto degli studenti e delle studentesse che sono passate. Sono i più meritevoli. Questo significa, adesso lui ovviamente fa tutta un'analisi, però per andare anche un po' velocemente, che il sogno americano non esiste, che la democrazia americana, e credo anche la nostra, anche in modo diverso, però non è davvero una democrazia che permette a tutti e tutte di avere una vita degna, perché se non sei in quello un quarto di popolazione considerata meritevole, non ci accedi nemmeno alle possibilità per una vita degna. E per non entrare proprio sulla mera base degli stipendi dell'economia, però per dire, Sandel porta anche gli esempi degli stipendi e di come quel quarto di popolazione ha degli stipendi per vivere molto più che in modo meritevole e in modo degno, tutto il resto della popolazione è tanto se arriva al salario minimo, che loro ce l'hanno, ma noi no. Altra cosa. Però per dire, e le persone che non entrano in questo un quarto non sono considerate che magari non volevano indebitarsi per la loro intera vita per entrare in università, o che non hanno avuto gli strumenti per pagarsi i corsi per fare l'SAT, perché è un test per cui ti devi preparare. Oppure la tua università pubblica, hai fatto un liceo pubblico e la tua scuola faceva cagare. No, no, no, non prende niente in considerazione di tutto questo. Tutto il resto delle popolazioni sono stupide, oppure soprattutto sono pigre, non si impegnano abbastanza per arrivare a quei punteggi, a quello stipendio, non sono abbastanza intelligenti per ottenere un bel lavoro. Sandel critica fortemente tutto questo contesto e giunge a dire che ci sono tre livelli per cui la meritocrazia non funziona. Me li sono scritti così non sbaglio. Allora, il primo livello è il livello filosofico. Il livello filosofico pone tre domande. Chi stabilisce che cos'è il merito? In che modo? E in che modo e chi stabilisce, chi controlla che la competizione sia giusta? E chi è che stabilisce qual è il punto di partenza e che tutti abbiano davvero lo stesso punto di partenza e che cos'è questo punto di partenza? Il secondo livello di critica è quello politico, ossia la meritocrazia per come è attualmente non ha creato uguali possibilità, ha creato solo disuguaglianza all'interno di una democrazia che però si dovrebbe basare sull'uguaglianza e di tutte le persone. E invece no, ha creato l'opposto, quindi mostra come da un punto di vista di critica politica opera in modo contrario rispetto alle sue premesse. E poi è il livello di critica morale, ovvero la dignità, cioè Sandel mette in relazione di come questo sistema, oltre a creare una polarizzazione tra le persone, tra quelle intelligenti e quelle stupide, non considera mai la dignità delle persone. Hanno dignità soltanto le persone intelligenti. Tutte le altre, intelligenti poi ovviamente per chi? Per cosa? Per quale indice? Sempre per la domanda, sono intelligenti soltanto perché guadagnano di più? No, ovviamente, però porta a una grande retorica delle persone invece che non ce la fanno, che non guadagnano abbastanza, sono stupide, non hanno dignità, sono dei fannulloni. ovviamente non sono d'accordo con niente di quello che sta dicendo, creando comunque una rassegnazione in questa situazione. Questa è la situazione che mostra Sandel nel 2021 in America, cioè in America, negli Stati Uniti, sottolineando appunto uno, di quanto sia contraddittorio come schema, cioè proprio come modello di pensiero, un modello non soltanto di pensiero, ma anche di società, di economia e poi di quello che risulta nelle nostre vite quotidiane. E poi di come non funziona, cioè funziona, ma funziona per così poche persone, che fa schifo. E io sto rendendo tutto molto semplice perché, e anche con termini molto semplici, perché uno, non sono in grado di parlare in filosofese, due, perché secondo me l'idea di queste presentazioni è parlare in modo accessibile. Quindi secondo me quello che lui dimostra è come questo sistema non funziona, non funziona, e oltre a non funzionare crea disuguaglianza, quando invece si mostra come essere lo strumento più giusto e più egualitario. A questo punto passo all'altro libro, che invece è un tentativo di mostrare quanto sia funzionare la meritocrazia. Questo professore si chiama Sant'Ambrogio, e questo testo anche lui è del 2021 e l'ha scritto proprio per rispondere a Sandel, e lui afferma che in realtà la meritocrazia, ok, può avere tutte le criticità che ha sottolineato Sandel, motivo per cui non bisogna utilizzare la meritocrazia, ma il merito. E il merito deve rispondere a tre principi: carriere aperte ai talenti, ossia, visto che ci sono persone che sanno fare delle cose e altre no, bene, diamo a chi sa fare le cose quell'opportunità. Due, uguaglianza delle opportunità, ovvero, nonostante i talenti, bisogna cercare di dare a tutte le opportunità per giungere a un determinato risultato. E poi il fatto che bisogna assegnare i posti solo a chi se li merita. Lui fa queste premesse e poi dice: io sono consapevole che niente di tutto ciò è rispettato. Lui considera l'Italia e dice: niente di tutto ciò è rispettato, non è vero che si dà davvero che ci sia davvero l'uguaglianza delle opportunità, ma secondo me è lo strumento migliore, ed è lo strumento migliore perché il merito da sempre è un'attitudine naturale degli uomini, riconoscere il merito. È naturale sin da bambini e da bambine riconoscere che qualcuno è più meritevole di qualcun altro, quindi, visto che è una cosa naturale, perché non applicarlo alla società intera con delle migliorie? Lui sostiene, tra l'altro, che il concetto di merito, oltre ad essere una cosa naturale che c'è da sempre, quindi considerare che uno è più bravo di altri, quindi più meritevole di altro, sostiene che è un concetto nato con la Rivoluzione francese, e visto che tutti i nostri stati-nazione sono in un certo modo eredi della Rivoluzione francese, bisogna seguire questa roba. E poi, tra l'altro, dice che nasce con la Rivoluzione francese perché al momento in cui non si seguono più i tre ordini, la schematizzazione dell'ancien régime, ma finalmente non si danno i posti di lavoro. Adesso ho detto posti di lavoro, però si intende, in particolar modo qui si intende le cariche dell'esercito ai nobili, quindi non si dà più la carica di generale a solamente il nobile, ma a chi se la merita davvero. Motivo per cui Napoleone è diventato Napoleone. Lui era un ragazzo della Corsica, però è diventato Napoleone perché ha fatto carriera nell'esercito. Quindi, secondo Sant'Ambrogio, è ad esempio l'esempio lampante di come ha funzionato la meritocrazia. Comunque, secondo me, questo, poi non so analizzare tutta l'opera di Sant'Ambrogio, anche perché sinceramente non l'ho letta, cioè no, non l'ho trattata in varie lezioni, sono andata a leggermi un po' di recensioni, un po' di critiche, un po' di passaggi, e il fatto che egli basa tutta la sua argomentazione sul fatto che forse è il sistema migliore di tutti, sicuramente è una cosa naturale e quindi dobbiamo applicarlo, secondo me fa un po' acqua da tutte le parti, anche perché riconosce tutti i problemi della meritocrazia, cioè li riconosce, dice, ma comunque è il sistema migliore. Quindi, a questo punto, secondo me, è interessante un attimo, faccio una sintesi velocissima e poi lascio il microfono dicendo: siamo partiti e partite dicendo, la meritocrazia è una cosa nella nostra quotidianità, sempre presente, che adesso qui mi sa che abbiamo tutte circa, cioè nella stessa fascia d'età non c'è nessun tipo che va alle medie o alle elementari, quindi non posso dire da bambini ci ricordiamo questa cosa, no, da bambini non ci ricordiamo questa cosa, però è presente a scuola, è presente negli sport, è presente nelle relazioni tra, diciamo, genitori o tra persone più piccole, persone più grandi, è presente a lavoro, è presente all'interno della società, è presente anche quando si parla di politica e quando si parla di manovre politiche. Adesso il Ministero dell'Istruzione è il Ministero dell'Istruzione del Merito. Tutto questo per dire, abbiamo analizzato come nasce il termine di meritocrazia e nasce in realtà con una prospettiva molto spaventosa e distopica, ossia non è quella che sta avvenendo, però secondo me è interessante vedere che come la prima persona a utilizzare il termine meritocrazia aveva paura della creazione di una nuova nobiltà basata sul quoziente intellettivo. Cioè, è ovviamente una cosa distopica, però anche Sandella ad esempio scrive che la meritocrazia ormai è diventata una questione che crea ordini fissi, statici, in cui non esiste più mobilità sociale. È difficile muoversi da una classe all'altra, è immobile. Questo perché la meritocrazia, lui dice, è praticamente diventata una nuova aristocrazia. Ovviamente sono termini anacronistici, però per far capire la situazione che stanno delineando. E infine possiamo dire una persona che invece è a favore della meritocrazia, il suo libro si chiama Il complotto contro il merito, quello di Sant'Ambrogio, dicendo appunto che c'è un complotto contro il merito perché tutti riteniamo che il merito faccia schifo e quindi c'è un complotto. Secondo me la sua confutazione non funziona, cioè non funziona per niente quello che dice contro Sandel, e in generale anche prima di affrontare questi autori e di studiare un po' più filosoficamente e possiamo dire in base alle scienze sociali, non sono tutti filosofi, queste questioni, le domande che mi sono fatta all'inizio sono quelle che mi facevo anche un paio di anni fa. È davvero una persona più meritevole soltanto perché guadagna di più? È davvero una persona più giusta soltanto perché ha più cose? Questo significa che le persone che magari non sono miliardarie vuol dire che non sono meritevoli di considerazione? Ovviamente no. E la domanda che invece credo più spesso mi sia fatta è: ci sono dei lavori e degli impieghi e delle cose che si fanno per la società, a volte pagati zero, a volte pagati molto poco, che però hanno un peso non indifferente. Perché non vengono considerati? Perché non vengono considerati meritevoli? Come prima ho fatto l'esempio dell'influencer, perché è la cosa più lampante, cioè fai due foto, fai una sponsorizzazione, ricevi milioni, però ci sono tanti esempi di questo genere. Quindi questo intendevo. E secondo me queste domande sono accessibili al ragionamento e a qualsiasi persona, anche ad esempio fuori da questo cerchio. Se vado a fare queste domande ai miei genitori, so che hanno un'opinione, perché è un aspetto pregnante nella vita. Fine. Scusatemi, ho parlato un sacco. Passo il microfono a chiunque voglia parlare. Io prendo la parola per provare il microfono che è altissimo, quindi lo abbassiamo, spero di aver preso il microfono giù, sì, e anche per non far cadere un attimo così la discussione, portarla avanti, e mi piaceva iniziare con un dato che parte da alcune delle cose che ha detto prima Miriam, che riguarda se una persona che guadagna di più di te vale di più di te. Ho trovato un dato interessantissimo su Google e ho cercato quanto guadagna Jeff Bezos. Adesso cazzo non lo trovo più, ma vi assicuro che l'avevo trovato, aspetta che forse l'ho trovato. Quanto possiede? Vabbè, insomma il dato era, Jeff Bezos guadagna al secondo 3.500 euro. 3.500 dollari, scusate. Io faccio l'operaio edile primo livello, un buono stipendio comunque, per la media italiana un buono stipendio, non ve lo dico perché così lascio sulle spine, ma al secondo ho contato che guadagno 0,003 centesimi di euro. Cioè io devo aspettare 3 secondi per fare un centesimo. In 3 secondi io faccio un centesimo. In 3 secondi Jeff Bezos ha già guadagnato 3, 6, 9 più 10.000 euro in 3 secondi. Ora io immagino che lui abbia fatto degli studi importanti, io immagino che lui abbia fatto pure degli sforzi immensi, io immagino che lui sia andato a dormire ogni giorno con l'angoscia, l'ansia stremante, devastante, perché doveva pensare solo ai soldi, però io non penso che lui abbia delle capacità umane, intellettuali, cognitive, fisiche così superiori a me che lo portano a guadagnare in 3 secondi l'equivalente di un anno mio di lavoro in 3 fottutissimi secondi, perdonatemi il francese, ma inizia a essere anche una questione di lotta di classe, cioè proprio quella roba lì. Sei un ricco di merda, guadagni un sacco di soldi, ti sbatti, eh? Hai fatto tutta la tua vita a pensare ai soldi, alla tua impresa, alla tua... ok, va benissimo. Poi si scopre che sei figlio di un senatore o di una senatrice democratica del Partito degli Stati Uniti d'America e sei partito con un budget iniziale, se non sbaglio, intorno ai 6 milioni di dollari, ma potrei sbagliarmi. E lì a quel punto, purtroppo mi dimentico il nome degli autori, ma c'è, cerchiamolo su Google, secondo me stasera lo troviamo, studio che fa vedere qual è il peso statistico delle, delle persone più ricche in questo momento, qual è il peso statistico della ricchezza alla partenza. Ve la faccio semplice, non sono tutti self-made men, anzi, tipo l'1%, 2%, 3% al massimo sono persone che sono partite facendo, cucendo i palloni per strada da bambini e arrivando poi dopo 40 anni ad avere la Nike, ad avere un impero di pelletteria che vende in tutto il mondo. Non succede, non è vero. La realtà dei fatti è che se vuoi essere straricco, devi nascere straricco, perché sennò le cose non funzionano più. Tolta questa roba così proprio di cinica, becera, guerra ai ricchi, che dovremmo probabilmente tritare e mangiarceli vivi, una cosa che secondo me è molto interessante, che chi è a scuola e in università lo capisce benissimo: merito vuol dire diventare capaci di rispondere nel modo in cui loro vogliono che ci sia la risposta. E infatti il professore, la professoressa, cosa ti dà il 10, il 30, cosa... il merito è se mi hai detto quello che io volevo sentire. E infatti l'astuzia dello studente, della studentessa, e penso che di dire la banalità più grande del mondo, seguire la lezione, capire qual è l'interesse di interesse del professore, scusate, qual è l'argomento interessante per il professore, e ripeterglielo. Ale, le fioccano 26, 27, 28, 29, 30. Non perché hai detto tutto, non perché la persona è più preparata, perché gli hai detto esattamente quello che a lui o a lei piace sentire. E questo è il merito. Cioè, essere funzionale nella società. Giustamente, prima Miriam citava questo libro. Io non sapevo assolutamente niente di questo libro. E infatti la cosa bella di momenti come questo è che scopriamo che il termine meritocrazia è del 1950. Quindi nel 1910, che non sono 6.000 anni fa, non c'erano le piramidi, non c'erano gli egizi, non c'erano i re, ma c'erano gli operai, c'erano le casalinghe, c'erano i partiti di massa, cioè tutte cose che esistono ancora benissimo nella nostra società, partiti di massa per niente, vabbè, purtroppo. Però, cioè, in quel tempo lì non esisteva la parola meritocrazia. E anche il concetto di merito sicuramente c'era, e dopo ci arriviamo, ma cioè aveva un'accezione completamente diversa. E da qui, piccola digressione, dopo la fine dell'Unione Sovietica, la fine della storia, Fukuyama, quel discorso di merda, di nuovo francesismo, perdonatemi, mancano anche a me le parole, Miriam lo faceva meglio, io lo faccio peggio, mancano molto meglio le parole, dopo quel discorso lì, negli ultimi 30 anni, io penso, ma qui bisognerebbe parlare con qualcuno che sa qualcosa molto più di me, o qualcuno che sa qualcosa molto più di me, è diventato molto più che nel resto della storia capace di convincere che l'unico sistema che esiste è questo, e l'unico sistema che esisterà per sempre è questo. Cioè io non lo so, se nel 1780, l'anno dopo la rivoluzione francese, loro si dicevano: ma no raga, cioè ormai la rivoluzione francese è millenaria, cioè non si può andare altrove. So, la percezione che io ho in base a quello che sento della storia è che la gente viveva la propria vita, diceva boh, mo è così, neanche si poneva la domanda: siamo arrivati alla fine della storia, più avanti di così non si può andare, perché siamo, cioè, troppo moderni, troppo più avanti, non cambierà mai nulla. In questo momento, cioè, l'unica cosa che esiste al mondo è la meritocrazia. In realtà è nata nel 1950, cioè, nel senso, una roba che è l'altro ieri, e non è affatto detto che continui a esistere, peraltro. Taglio corto, ed ero partito dal concetto di meritocrazia. Ecco, in quel libro lì si parla del fatto che è intelligente chi aiuta ad aumentare la produzione, punto. È a forza chi è capace di produrre, quindi chi ha la forza fisica di produrre. Cioè, ed effettivamente questo è proprio lo spirito della meritocrazia applicata. Se tu nella tua ditta ente sei capace di aumentare il profitto del capo, tu sei meritevole, bravo. Non è perché hai risparmiato, non è perché hai fatto lavorare meglio i tuoi colleghi, le tue colleghe, non è perché hai inquinato di meno. No, basta che mi aumenti i soldi che mi entrano in tasca. E allora c'è, è quella veramente intelligenza, merito, talento, o è sei funzionale al sistema? E quindi a quel punto già lo shift è la meritocrazia come evento sportivo, competizione in cui il primo che è arrivato vince, a in realtà chi è più funzionale a un sistema vince. E anche lì, cioè, di nuovo, Miriam lo diceva prima benissimo, se corriamo, io non ho una gamba, tu ne hai due, vinci tu. Cioè, non è sport, capito? Nello sport partiamo tutti quanti dalla stessa linea, l'arbitro spara e il primo che arriva ha vinto. Ed è il bello dello sport è quello, perché stai richiudendo per un momento, stai chiudendo fuori le regole della società, ci confrontiamo su un altro piano dove vince chi è più tecnicamente e fisicamente portato a vincere quella cosa lì. E a parte il fatto che anche qui, spoiler, ormai sia nello sport olimpionico che nello sport professionistico si è capito che è genetica. E infatti, e così poi facciamo tutte queste butade tanto per riderci sopra, gli stati occidentali si sono inventati le Olimpiadi invernali quando hanno iniziato a partecipare alle Olimpiadi estive anche paesi africani, dove la gente era molto più sviluppata fisicamente e molto più capace di resistere nella corsa, hanno iniziato a perdere tutte le gare delle Olimpiadi storiche, hanno detto inventiamoci delle Olimpiadi dove l'Africa non può partecipare, tipo le Olimpiadi dove c'è la neve, perché tendenzialmente in Africa ci sono pochissimi posti dove c'è la neve e comunque riescono a perdere anche lì lo stesso. Per fortuna c'è la squadra di Bob della Giamaica del 1994, andate a vedere, c'è un bellissimo film che ne parla. Tolto questo, l'altra questione che secondo me era interessantissima a tirare fuori, e ci ho pensato solo dopo un po', perché in questi giorni presentando un po', cioè preparando un po' per questa presentazione, molto meno di come ha fatto Maria, mi sono ascoltato delle cose, c'era una roba di sottofondo che non riuscivo a capire dov'è che mi portava, perché mi fischiava questa cosa che nella Palestina di Gesù Cristo, intorno all'anno zero, la moneta si chiamava talento. Era talento d'oro, cioè paradossalmente tradotta nell'italiano proprio con la parola che indica quell'estro speciale che una persona ha alla nascita e che può essere artistico, sportivo, un certo tipo di intelligenza, di capacità. C'è una parabola che l'ho trovata, Matteo 25:17, che poi sembra quella di Pulp Fiction, Ezechiele, l'uomo, divertentissimo, è un'altra cosa. E in quella parabola si parla del fatto che un ricco signore se ne va, lascia dei talenti a tre diversi servitori, 5 a 1, 2 a 1 e uno solo all'ultimo. I primi due vanno, investono, tornano col doppio e quindi il padrone gli dice bravo, sei stato. Poi tra l'altro le formule bibliche sono molto interessanti perché sono bibliche, cioè hanno dietro tutte delle metafore importantissime. Sei stato mio buon servitore nel poco e nel poco importante, sarai mio servitore in ciò che è più importante. Cioè, non so se iniziate a capire, Stati Uniti d'America, padri puritani che arrivano, se sono servitore qui in terra che conta poco e raddoppio i talenti che sono la moneta, i soldi, iniziano già a esserci metafore che diventano realtà, vuol dire che poi quando conterà molto, nell'oltre la vita, sarò suo servitore, cioè sarò vicino a lui in paradiso. Arriva l'ultimo, che è un servitore che ha paura e dice so che tu sei un servitore duro e crudele, e mieti, tanto è bellissimo, mieti dove non hai seminato, vuol dire che dove non hai coltivato il campo riesci a raccogliere qualcosa, cioè tipo il colonialismo più totale, cioè dove non avevi roba tua sei andato, hai strappato quello che c'era, te lo sei portato a casa, e ho avuto paura, ho nascosto il talento sotto la terra, te lo ridò, così com'è. E il padrone si vendica su di lui, cioè tu fannullone, imbroglione, malvagio, che è una cosa diventa morale, tu malvagio non hai investito il tuo talento, che era essere capace a parlare con le persone, era correre veloce, era saper fare bene un muro, era un euro del tempo, non l'hai investito, ora subirai la mia vendetta. Cioè, quindi io penso che da questa, come si dice, questa parabola, che essendo il Nuovo Testamento, la datazione reale della scrittura non si è mai fatta, però teoricamente siamo intorno al 60-100 d.C., è già da quell'anno lì che ha iniziato a lavorare dentro il cervello collettivo dell'Europa occidentale cristiana il concetto che ti devi impegnare, perché sennò il Signore, i talenti che ti ha dato, li devi investire, perché sennò poi si vendicherà. È una cosa che scava, come dicevo giustamente prima, ma è scritto appunto nel libro di Max Weber, che non mi ricordo il titolo per intero, ma finisce con "E l'anima del capitalismo". Se non so se magari Catena e Aurora se lo ricordano, perché sono più professionisti di noi, però il senso è quello. L'etica protestante. Grazie Chiara! Che è proprio questa cosa qua. Cioè, il materializzare in questa terra il tuo successo, quei soldi che fai, vuol dire dimostrare alla collettività, perché anche quella cosa dello show off, cioè far vedere che sei arrivato, è l'annunciazione che dall'altra parte, oltre la vita, sarai accolto vicino al Signore. Per cui c'è le tre cose, impegnare i propri talenti, far vedere che sei ricco, sei ricca, e poi goderti il trionfo del paradiso, sono cose che si legano tantissimo. E io adesso cerco di finire perché sennò parlo fin troppo. Era, vabbè, io, cioè io mi stavo domandando se scrivere agli altri, alle altre del gruppo con cui abbiamo preparato questa serata, ma alla fine non l'ho fatto. E ho ascoltato dei podcast. C'è un podcast di cui non faccio una pubblicità scritta, perché sennò magari rimane e non c'ho voglia di fare troppa pubblicità, di un tizio, di un tipo che fa podcast, che si chiama Daily Cogito. Ha scritto, cioè ha fatto un podcast esattamente su quel libro di Sandel, facendo una critica totale, parlando solamente di quanto si è dei pazzi scriteriati se si fa una critica della meritocrazia, perché evidentemente si vuole soltanto che i giovani sentano come una colpa i talenti che si hanno. Ed è divertentissimo perché lui nell'esposizione che fa proprio, vabbè, parla esattamente di dobbiamo essere imprenditori di noi stessi, impegnare, investire le nostre capacità per ottenere in futuro non soltanto soldi, che tra l'altro lui è una cosa divertente, che ogni tanto se ne esce perché non sono poi così tanto importanti, perché comunque l'uguaglianza, cioè, fa pure quello impegnato, no? Fa pure quello che ci sta dentro, che comunque l'uguaglianza è necessaria, poi come professore lo sappiamo che non partiamo tutti quanti dalle stesse, però fatelo lo stesso, bisogna investire in se stessi per poi riuscire a poi avere qualcosa indietro. Che è esattamente cioè, è proprio quello il discorso di merda. Cioè, è devastante come questo uomo viva proprio con incredibile slancio intellettuale, personale, emotivo, quella vita di merda lì. Cioè, proprio il fatto che ti devi investire per essere qualcosa di meglio dopo. Dici, ma cioè, che cazzo c'entra? Cioè, cosa vuol dire la vita? Forse, dopo un po' che girovagavo a caso, cioè, il senso della vita sono le relazioni che ti crei. Sono come stanno le persone intorno a te, sono se una persona che stava peggio prima, poi sta meglio, se uno che era senza gamba adesso c'ha la protesi, se il bambino che piange adesso è felice, se chi non c'aveva da mangiare adesso c'ha da mangiare, quello è il senso della vita, perché investire in te stesso per dimostrare in un futuro di aver vinto, cioè, secondo me, sei un decerebrato che ha confuso la gara di 100 metri con la propria vita. Cioè, zio, il bello dello sport è che dopo anni che lo fai capisci che quando sei uscito dalla palestra, fine. Sport è sport, la vita è vita, ti sei preso le tue soddisfazioni, sei sfogato, sfogato, hai fatto quello che ti piaceva, basta, ora c'è il resto della vita. Cioè non mischiare le due cose, perché sennò diventi uno che si sogna la competizione dove non ci dovrebbe essere, dove non ha senso che ci sia. Perché sennò, semplicemente, dato che sei nato in Africa, ma sei un mostro di matematica, nessuno si accorgerà di te, perché sei nato in Africa. E la roba, cioè, ai limiti del paradossale, se vuoi puoi. C'è quella bellissima battuta, guarda che l'Everest è pieno di gente che è morta, che era altissimamente motivata. Cioè, magari calmati, perché non c'è bisogno. Cioè, se ti racconti che ce la fai, non è vero che ce la fai alla fine. Bisogna considerare tutto ciò che è intorno. Vabbè, io sono stato abbastanza caustico e arrabbiatissimo per questa cosa del merito, mi fa incazzare come una bestia. Però adesso, ovviamente, chi c'ha voglia può continuare. Bellissimo il riferimento con tempo, sono sempre contento credo, ma è un po' da come è emerso, da quello che avete detto benissimo, quindi per certe cose non saprei né come dirlo meglio né cosa aggiungere, se non magari qualche esperienza personale, che mi piacerebbe anche parlare, considerato che oggi ci sono tanti ragazzi, diciamo, che non so se sono al liceo, ma comunque ne sono usciti anche da poco, soprattutto anche rispetto a me. Io posso parlare dall'altro lato, no? Perché io insegno al liceo. Credo un po' da quello che si è detto che possiamo dire benissimo che la questione del merito e della meritocrazia in fondo non sia altro che un'espressione di egemonia culturale, cioè di una classe politica che è dominante come forse mai lo stato nella storia e che con grazie appunto a questa predominanza di egemonia è riuscita a inculcare la questione, l'ideologia, chiamiamola così, del merito in tutti gli strati e in tutti i livelli della società, tanto che se è vero come si diceva, mi ricordo che parlava anche qua, no, per la famosa frase citata da Fischer, è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, si può benissimo applicare anche al merito, tanto vanno di pari passo le due cose, cioè difficile, cioè più facile immaginare la fine del mondo che la fine della meritocrazia per certi versi. Possiamo chiederci, come un po' ha fatto anche Ulisse, se sia stato sempre così, insomma, no? Cioè se il riconoscimento di un merito sia stato sempre, diciamo, o meglio, se ci sia stato sempre una stratificazione sociale sulla base di un certo tipo di riconoscimento del merito anche nelle società antiche. È una cosa di cui non possiamo essere molto sicuri, no? Per esempio nella società greca c'era la concezione dell'aristocrazia, no? Gli aristoi che erano i migliori, ma almeno lì si giocava, secondo me, a carte scoperte, i migliori che erano i bennati, cioè quelli che nascevano da determinate famiglie, diciamo, almeno con tutti i difetti di questa concezione, almeno si può giocare a carte scoperte, ecco. E, tanto è vero che il capitalismo è una parvenza germinale di globalizzazione, vanno di pari passo col merito e tanto con la meritocrazia, e tanto più quando la globalizzazione e il capitalismo si diffondono, tanto più aumenta questa pervasività della meritocrazia, che il riconoscimento del merito di una società a livello globale, che poi si riflette anche a livello microsociale, cioè negli individui, è collegata alla meritocrazia, che ne troviamo i primi barlumi con la colonizzazione, con le scoperte geografiche e poi con la colonizzazione almeno dal 500 in poi, no? Dal 1500 in poi, con la scoperta dell'America, dell'esplorazione geografica e tutto il resto, no? Perché dico questo? C'è quel libro famoso che penso tutti abbiamo sentito nominare, quantomeno, cioè Armi, Acciaio, Malattie di Diamond, no? E si fa la domanda fondamentale, cioè perché siamo stati noi europei a scoprire e colonizzare le Americhe e non viceversa, no? La risposta sta nel titolo Armi, Acciaio e Malattie, a cui non c'è nel titolo, ma si aggiunge per esempio l'avere un'alfabetizzazione maggiore, un sistema di scrittura più efficace, più pervasivo, e questo viene addotto come prova del merito, cioè noi abbiamo conquistato, scoperto e conquistato le Americhe perché eravamo più meritevoli, perché eravamo più bravi e quindi abbiamo potuto farlo, e quindi è giusto che sia andata così, è giusto che sia andata in questo modo. Se per le malattie non è magari un merito perché sono capitate, no? Per il vantaggio tecnologico e il vantaggio culturale uno potrebbe dire, beh, il vantaggio culturale e il vantaggio tecnologico ce lo siamo costruiti e quindi siamo stati più bravi e meritevoli. In realtà Diamond dice che nemmeno questo è un merito, perché dipende da questioni, diciamo, geopolitiche, molto più dalla geografia dei luoghi che per altro, ma quel discorso, diciamo, che si farebbe molto complesso. Diciamo che probabilmente Weber, nel libro che si è citato, che non sono diciamo molto d'accordo su tantissime cose di Weber, no? Lui fa tutto il discorso sull'etica protestante, della nascita del capitalismo, anche in funzione antimarxista per certi versi, no? Per dimostrare che non sono solo le condizioni storico-materiali ed economiche che influiscono sulla creazione di una ideologia, ma sono anche le ideologie che principalmente, anzi in questo caso, hanno contribuito alla nascita di un sistema economico. Però anche Weber sottolinea questo fatto, cioè che un certo tipo di intendere religiosamente, come sempre sottolineava Miriam, il successo sociale è una dimostrazione fondamentalmente della grazia di Dio, e in base a questo noi possiamo dire, possiamo dimostrare, cioè tanto più riusciamo nella vita, tanto più abbiamo successo, tanto più vuol dire che Dio è dalla nostra parte, che siamo nella grazia di Dio. Anche questo è un atteggiamento che si è diffuso. Poi, perché il calvinismo? Perché il calvinismo è una sorta di riproposizione del legalismo ebraico nel cristianesimo, no? Cioè essere totalmente aderenti alla legge di Dio, e chi è totalmente aderente alla legge di Dio è quello che è il prescelto, no? Noi occidentali siamo il nuovo popolo eletto da questo punto di vista, no? Siamo quelli più meritevoli agli occhi di Dio e del mondo intero, e quindi siamo quelli che possiamo permetterci, perché non meritiamo la globalizzazione, e via discorrendo. Andando più, diciamo, nel quotidiano, così, diciamo, nelle esperienze personali, mi è capitato giusto ieri di fare una sostituzione in una classe, e ormai a scuola si è diffusa la voce, si conoscono, una ragazza fa, ah, ma prof, allora lei è comunista, no? Ah, ma allora lei pensa che un operaio debba guadagnare quanto un medico e un ingegnere? Cioè, per allora era assurda questa cosa, no? Cioè, il peccato mortale della nostra società sia pensare che un umile operaio, il Bonguli, per esempio, dovrebbe guadagnare quanto un primario di medicina. No, per allora è una bestemmia questo. E penso che se io dovessi chiedere nelle classi in cui sono stato, sarebbe rarissimo chi penserebbe il contrario rispetto a questa visione. C'è da chiedersi, è una cosa su cui ci possiamo interrogare, se ci possiamo confrontare, cosa significa il mondo dell'istruzione collegato al merito. Intanto vorrei partire da un assunto di Pierre Bourdieu, un sociologo francese, che ha detto che nel sistema capitalistico il sistema dell'istruzione prevede che l'asticella venga progressivamente spostata sempre più in là. Cioè, nel senso, richiede titoli di studio sempre maggiori, sempre più elevati, sempre più a pagamento, di fatto. Sicché, se a un certo punto basta il diploma, dopo una decina d'anni il diploma non basta più, serve una laurea di primo livello. Dopo un'altra decina d'anni non basta più, serve una specialista, una magistratura, una specializzazione, poi il master, e così via. Questo perché le classi, tra le subalterne, detto brutalmente, meno ricche, hanno in questo modo meno possibilità di accedere a quei corsi che le classi dirigenti, sono quelle più ricche, propinano, e quindi l'asticella viene spostata sempre più avanti. A livello individuale sarebbe interessante notare anche nell'insegnamento come potrebbe valere come antidoto, diciamo, come formula opposta a quella della meritocrazia, il buon vecchio adagio marxista di a ciascuno secondo il suo bisogno, da ciascuno secondo le proprie capacità. Ecco, questo, la domanda fondamentale dell'istruzione è questa, cioè l'istruzione è una maniera, deve essere, come lo sappiamo, ma dico dovrebbe essere una maniera di selezione meritocratica di persone funzionali a un sistema, come di fatto ora, o piuttosto è servita mai, dovrebbe servire a quello che un tempo veniva chiamato riscatto sociale. Sono stati dei momenti in cui l'istruzione ha potuto funzionare da riscatto sociale? È mai stata pensata in questo modo? Ci sono stati degli esperimenti in cui qualcuno ha tentato di fare in questo modo? Uno da cui, per ragioni ideologiche, mi sento molto distante, per esempio, è quello di Don Milani. Un altro che invece a cui mi sento magari più vicino è quello di Danilo Docci e la sua esperienza in Sicilia, a Partinico, no? Dove l'istruzione davvero ha consentito a gente che non sapeva né leggere né scrivere, fare di conto, di apprendere le basi di ciò che può richiedere una società complessa come la nostra, affinché le classi con meno strumenti di questo tipo, diciamo svantaggiate culturalmente, possano avere dei modi per fronteggiare ciò che ci sta di fronte, no? Famoso, non so, chiamiamolo spirito critico, chiamiamolo non farsi fottere da uno che sa fare tutto tu e tu non lo sai fare, no? Chiamiamoli in questo modo. A me piacerebbe sapere e capire come dalla parte degli studenti, che siano studenti medi o universitari, è recepita la questione del merito, perché io, e chiudo, posso dire come la percepisco io da questa parte, cioè dalla parte dell'insegnante, no? Lo percepisco come una sorta di bombardamento emotivo, culturale, politico, ideologico, didattico, a tutti i livelli che volete, in cui sono inseriti i ragazzi a scuola oggi. Cioè oggi con la meritocrazia si sta bombardando ideologicamente un'intera generazione, cioè una cosa che va avanti da un po' di anni e che si è accentuata anche cambiando il nome al ministero, come diceva prima Miriam, e questo genera un'ansia, una pressione sociale che ovviamente lascia indietro i più svantaggiati da un punto di vista sociale, economico, culturale, e agli altri mette comunque una pressione addosso che non tutti per forza di cose riescono a reggere, e che si traduce nei casi più estremi e gravi o con depressioni o peggio con suicidi, perché non si riesce a stare nei tempi, si è costretti a mentire, no, notizie che sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, vorrei magari sentire qualcuno che dice come è avvertita questa cosa dall'altra parte. che si sta dicendo appunto rifletta molto bene quanto la multidimensionalità del problema del vento, nel senso che chiaramente è una questione politica, nel senso che chiaramente è un fattore che determina anche nel nostro presente, nella nostra quotidianità, come le risorse vengono gestite, come appunto il sistema e la società viene gestita, ma dall'altra è anche una questione molto più proprio culturale e anche più individuale, nel senso che poi va anche a influenzare quelle che sono le relazioni, nel senso che chi è migliore desidera e si approccia alla relazione volendo mantenere questo status, o questo livello in qualche modo, quindi veramente è un tema anche di questo tipo. Una cosa che si diceva, che secondo me è molto importante anche proprio per trovare un punto su quello che vuol dire anche la meritocrazia adesso, secondo me, è un concetto teorizzato da un sociologo americano, Talcott Parsons, che è stato il padre dello structural funzionalismo, che adesso, senza fare la spiega nozionistica, però è semplicemente per inquadrare, ma è la corrente sociologica che nel secondo dopoguerra negli Stati Uniti era più seguita, più accettata e più largamente diffusa a livello accademico e non. E questo structural funzionalismo sostanzialmente dichiara che ogni sistema funziona e si articola con delle istituzioni, degli insiemi di persone che rispondono ai bisogni fondamentali. Quindi l'idea che tutto ciò che è a livello sociale, la struttura sociale anche gerarchica in qualche modo, è così perché risponde a delle necessità. Cioè l'idea che le persone, gli individui, comunque questa cosa è importante perché la rivoluzione francese o comunque anche il passato del merito della meritocrazia in realtà individuo e di individuo. Realizzazione dell'individuo passa dalla capacità e dalla abilità di trasformare talenti o capacità stesse in competenze che possano poi essere appunto che possano a rispondere a quelle necessità fondamentali di cui a cui accennavo prima. Quindi secondo anche appunto questo tipo di teoria che sociologico poi prende piede, in realtà ha strutturato anche tanto a livello poi politico, perché l'influenza fra sociologia e politica, nel senso, spesso è in qualche modo collegato, però appunto in questo caso è negativo ovviamente, però perché Parsons parla del mercato e delle istituzioni di socializzazione, quindi università, scuole eccetera, come luoghi di selezione sociale. E quindi la cosa che poi, secondo me, che volevo in realtà portare più in evidenza con questo intervento era sul fatto di quanto sia tutto esattamente scritto e teorizzato in qualche modo. Cioè la meritocrazia, il merito, l'importanza di valori appunto universalistici che non guardino e che non diano peso alle cosiddette ai cosiddetti status ascritti, cioè a caratteristiche che una persona ha alla nascita, quindi il sesso, la razza, delle abilità o non delle abilità, eccetera, sono cose che appunto non sono sotto il nostro controllo. E l'idea è che l'individuo debba superare i propri status ascritti e tramite un investimento razionale, chiaramente, quindi basato su un'analisi costi-benefici, arrivi a raggiungere uno status acquisito, quindi achieved in inglese, quindi need for achievement, migliore, che lo posizioni favorevolmente all'interno della, della gerarchia sociale. E quindi questa è appunto la cosa sconcertante, che è teorizzata ed è così, e appunto come si diceva prima c'è una grandissima fetta di realismo in questa cosa, nel senso che non si pensa nemmeno che possa esserci qualcos'altro, ma questo perché, diciamo, in realtà, e questo è un fattore molto ideologico della meritocrazia, cioè anche molto appunto di egemonia culturale, come si diceva prima, è il fatto che c'è addirittura una teorizzazione sul consenso sociale, cioè sul fatto che quest'ordine meritocratico, universalistico, appunto individuale, esiste, sia buono, sia funzionale alla società, e che sia così anche perché c'è consenso generalizzato nel fatto che, ad esempio, se una persona occupa una posizione sociale più alta, è giusto che riceva un compenso maggiore rispetto a chi no. Perché? Perché ha saputo in maniera migliore e più efficace investire razionalmente le sue capacità ascritte nel tentativo di raggiungere uno status acquisito maggiore. Quindi è anche in questo senso, e l'idea poi che c'è è sostanzialmente in quel fattore ideologico che è il self-made man, è che le persone che sono migliori, che quindi sono più meritevoli, siano innovatrici. Infatti la storia che ci si racconta è che appunto che Jeff Bezos è stato un innovatore, perché ha portato una cosa nuova che non esisteva, il commercio online, eccetera, che è una cosa che evidentemente non c'era, ma non è perché lui ha saputo in maniera più smart e innovativa utilizzare ed investire le sue capacità ascritte che ha potuto fare quella cosa, ma al contrario è proprio per le sue capacità ascritte decisamente favorevoli che ha potuto innovare e analizzare, interpretare il suo ruolo sociale in maniera più innovativa. Quindi chiudo dicendo che la cosa più sconcertante, che poi secondo me è anche molto interessante sulla questione del merito che è legata al realismo, è che tutte le rilevazioni empiriche di ricerca quantitativa e qualitativa su questo argomento, cioè sulla mobilità sociale legata al merito, smentiscono in ogni sua forma questa teoria. La comunità accademica teoricamente, e quindi questo ci fa pensare chiaramente sul livello dell'accademia in Italia e nel mondo, è cosciente, perché le stesse ricerche prodotte e diffuse secondo il metodo e il ragionamento scientifico del paradigma attuale smentiscono sotto ogni forma empirica questa teoria. Ed è questa la cosa più assurda, ed è questo che dimostra secondo me come nient'altro la tenacia del realismo in questo momento, perché addirittura nei livelli della società che studiano e che dovrebbero sapere in maniera migliore, più lucida, più trasparente questa cosa, non c'è possibilità di comprendere e di accettare che sia tutta una sostanziale bugia, nemmeno quando le loro stesse ricerche confermano che sia una stronzata, cioè una cosa finta, cioè che non è vera, banalmente. E quindi niente, questo era questo. Quindi secondo me, chiudo, riassumo dicendo che la cosa che mi perplime di più è, come sempre, anche in realtà il tema del realismo, nel senso che, per quanto sia una cosa recentissima, è una cosa che già, perché chiaramente va a pari passo col neoliberismo, è una cosa che fa molto comodo chiaramente, però è allucinante come sia una cosa appunto sia inizialmente addirittura di narrativa, distopica, poi una cosa teorizzata e pensata, ma poi una cosa sostanzialmente falsificata all'interno dell'ordine teorico, diciamo, attuale. Quindi insomma, questo. Non sono assolutamente esperto come Darione o come le persone che lo hanno preceduto di filosofia, anzi, cioè, però sono un appassionato di storia e ultimamente stavo leggendo un po' di cose del periodo, diciamo, medievale e notavo questa cosa. Cioè, la storia praticamente è divisa, da un certo punto di vista, così. C'è una parte della storia in cui ognuno è quello che è ed è giusto che sia così. E quindi c'erano varie giustificazioni, non so, nella super antichità tu sei schiavo perché sei schiavo, io sono divino perché sono re, sono figlio di Dio, che si è mutato poi nel Medioevo in Dio vuole che tu, contadino, lavori, ti fai il culo e io, nobile, raccolgo i frutti delle cose, amministro e faccio in modo tale che tutto sia così, ma a un certo punto questa cosa è cambiata. Ci sono le rivolte, varie rivoluzioni, vengono tagliate teste, nascono partiti nel Novecento di massa che mettono in discussione questa cosa. E a un certo punto cosa succede? Che arriva questa nuova teoria della meritocrazia che secondo me di base reprime dall'interno questo tipo di istanze, perché di base mette le persone in una condizione di guerra costante una con l'altra, perché nella meritocrazia non è che possiamo vincere tutti. Quindi se c'è un concorso e ci sono 5 posti e siamo 5.000, ci stiamo facendo una battaglia per avere quei 5 posti e dovremo tutti dimostrare qualcosa, non si sa bene cosa, non si sa bene a chi. E quindi il primo aspetto è la divisione, l'atomizzazione delle persone che è per... E quindi, non so come dire... questa meritocrazia questa è un'arma che abbiamo interiorizzato, che fin da quando io adesso non vado più a scuola da un bel po', ho fatto l'università, però quando andavo a scuola anche alle elementari la cosa importante per me era prendere un voto alto, perché la regola era voti alti otterrai quello che vuoi, farai un bel lavoro, guadagnerai tanto e sarai una persona di successo, che col tempo si è acuito sempre più, è diventato sempre più serrata questa cosa. Però cosa, cioè, perché è funzionale, secondo me, al potere e a interrompere quel meccanismo di messa in discussione del potere, quindi del fatto di dire se io sono... figlio di operai perché dovrei valere meno di un figlio di imprenditori? Perché questa, non solo questa ideologia, non so come chiamarla, crea questa divisione tra di noi, ma crea anche un immenso bacino d'eccellenza da cui il potere poi può andare a scegliere, perché di fatto questo succede, perché ci sono miliardi di persone iperistruite, milioni di ragazzi iperistruiti rispetto al passato, migliaia di persone iperspecializzate in migliaia di settori differenti, che diventano che cosa? Un bacino attraverso quale le aziende private, le multinazionali, chi per esso, può attingere, ed è lì che l'inganno che ci frega a tutti e tutte. Perché quelle persone che poi vengono scelte diventano il simbolo tale per cui questa meritocrazia addirittura esiste e funziona, perché guarda, lui ha studiato, ha fatto, ha disfatto e adesso ha un bel lavoro. E vai a spiegare che ci sono altri 5 milioni uguali a lui che invece il lavoro non ce l'hanno. Cioè, e quindi secondo me questo aspetto, il fatto che noi abbiamo interiorizzato moltissimo questa cosa e che nella nostra quotidianità emerge in milioni di aspetti della nostra vita, anche che non hanno a che vedere con quel lavoro. Cioè, io ti aiuto se tu mi fai vedere che ti dai da fare, io faccio questo se tu è... Cioè, quindi questa, il fatto di doversi meritare qualcosa per poter sopravvivere non è un aspetto che nelle nostre vite sta solo nel lavoro o sta solo nella valutazione scolastica, ma è un aspetto che secondo me ha investito tutti i livelli della nostra esistenza. Perché quando vedi uno al marciapiede che ti chiede un euro, glielo dai, però dentro di te, in modo malvagio, pensi, però se tu ti dessi da fare, non sei vecchio, non sei menomato, potresti andare a fare a scaricare i camion, a spaccarti la schiena, e io dico, ma perché cazzo uno si deve spaccare la schiena? Uno o una? Cioè, per quale ragione? Cioè, per meritarsi €1000? Cioè, è questa cosa che secondo me in qualche maniera dobbiamo mettere noi in primis in discussione, cioè cominciare a noi a mettere in discussione nella nostra quotidianità questo concetto del meritarsi le cose, del dover fare qualcosa per ottenere qualcosa, e cercare magari di cominciare a costruire un qualcosa che sia basato su un fondamento differente da questo. Perché il rischio, secondo me, è che abbiamo analizzato, ci siamo resi conto che non funziona, nonostante poi nella quotidianità tutti partecipiamo a sto gioco, in modo tra l'altro anche sanguinario delle volte. E quindi secondo me la chiave sta nell'approccio a 360 gradi di questa meritocrazia, di come ci investe in tutti i nostri aspetti della vita, di come ci condiziona addirittura nei rapporti con le altre persone. Perché poi, come diceva anche Gulli prima, magari è lì che si misura il merito o quello che dovrebbe essere. È lì che si misura la tua vita, nella capacità di costruire relazioni, di fare in modo che chi sta intorno a te abbia determinate possibilità, eccetera, eccetera. E quindi, non so, volevo aggiungere questa considerazione rispetto a questo punto di vista, perché secondo me poteva essere interessante. Intanto grazie della serata, io è la seconda volta che partecipo a queste serate e sono sempre molto stimolanti. Io non ho studiato filosofia, ho fatto dei tentativi universitari, ma adesso faccio assistenza clienti in un'azienda, lavoro sotto padrone, insomma. Però penso che sia assolutamente stimolante poi confrontarsi anche su concetti che sentiamo parte delle nostre vite, ma se poi non si ha l'occasione anche di dibattere da dove nascono e come si sviluppano, rimangono poi riflessioni che ci logorano individualmente. E proprio sull'individualità, cioè, partirei, faccio un intervento comunque molto breve, mi sono segnato solo dei punti, appunto stimolato dagli interventi che mi hanno preceduto. Per me la meritocrazia vuole essere proprio questo, cioè, più che essere il potere del merito, come dovrebbe essere poi letteralmente, è in realtà quello che stiamo vivendo, come la declinazione della meritocrazia è la competizione del merito. Cioè, noi siamo all'interno di una gara per cui dobbiamo essere in qualche modo classificati, e siccome non hanno trovato un modo migliore per classificarci, hanno inventato questa cosa non definendola, perché poi abbiamo girato attorno alla definizione di meritocrazia, però non siamo andati a sviscerare qual è effettivamente la definizione di merito e qual è la base su cui effettivamente giudichiamo il merito di una persona o di un'altra persona, ma perché poi di fatto è un, probabilmente possiamo anche definirla diversamente a seconda della convenienza, perché tutto sommato serve semplicemente a creare appunto un'individualità, come nel tuo intervento, cioè secondo me c'entravi molto bene il punto, è il fatto di farci concentrare su quest'idea che la soddisfazione possa essere, anzi sia, prettamente individuale. Cioè, se uno, come penso alla gran parte di noi, invece in qualche modo anela una soddisfazione sociale, collettiva, già da questo ragionamento è escluso. Cioè, la tua soddisfazione, la tua realizzazione può essere solo rispetto a quello che guadagni, al tuo salario, al tuo merito, al tuo titolo di studio, ma che sono tutte cose individuali. Mentre la soddisfazione che la tua collettività, la tua compagnia, la tua famiglia allargata, la tua tribù abbia di che vivere, di che mangiare, di che essere felice, questa cosa non è valutata nell'idea nella gara all'interno della quale stiamo competendo. Per cui, vabbè, secondo me la, sostanzialmente questa meritocrazia non è nient'altro che un'invenzione che si è dato il, diciamo, quello che stiamo chiamando questa sera il sistema per mantenersi uguale a se stesso. Cioè, cos'è che può aiutare il sistema a riprodursi uguale a quello che è? Un qualcosa che, cioè delle regole che ci mettono tutti gli uni contro gli altri e che in qualche modo ci dicano: no, ma tu sei arrivato più in là perché hai avuto, cioè sei riuscito a percorrere più strada negli studi, negli investimenti, e ovviamente senza guardare qual era il tuo punto di partenza. Per cui anche dal punto di vista, se vogliamo, della, secondo me molto inglese, del legarla alla competizione sportiva, appunto una competizione un po' dopata, per cui molto dopata, in cui ognuno ha un punto di partenza diverso, però il punto di partenza non viene mai considerato anche nel momento in cui si vuole valutare il merito. E mi sono segnato altri tre punti spot che mi faceva piacere condividere. E tu hai parlato di questo testo di Sant'Ambrogio che parla di talenti. Ecco, io quando 20 anni fa andavo in università, se sentivo la parola talenti dicevo CL, e secondo me Sant'Ambrogio, Raffaele, San Raffaele, quella è. E non per niente poi la provenienza, cioè il termine anche talento, se vogliamo, nelle letture bibliche e così, non si discosta molto, ma perché in fondo quest'idea che quello che dobbiamo inseguire è un qualcosa che è Dio che ha voluto darti, cioè poi fa parte della narrazione che si vuole tramandare, e che non si riesce poi a validare da un punto di vista genetico, da un punto di vista effettivo, cioè di poterti misurare anche, se vogliamo, il quoziente intellettivo. Possiamo inventarci mille modi per valutarlo, poi ci rendiamo conto che sì, io così sto valutando un quoziente intellettivo magari di tipo logico-matematico, ma non riesco ad avere l'intelligenza sociale, l'intelligenza artistica. Per cui cioè io faccio la definizione e poi dico: questa è la classifica. L'unica società in cui personalmente inizierei a valutare le capacità delle persone è una società che parta da delle condizioni di uguaglianza radicali. Per cui secondo me, se proprio vogliamo inventare, anche lì stando ben attenti poi a quello che definiamo come merito, cioè vogliamo applicare un certo tipo di meritocrazia, lo possiamo fare solo in una condizione di comunismo assoluto, quindi come fase suprema del comunismo, anche se in quel senso, cioè allora è semplicemente l'anarchia, in cui io non ho bisogno di definire delle leggi, non ho bisogno di definire delle regole, ma ognuno è naturalmente incline, predisposto a seguire una sua capacità, e questa capacità aiuta alla realizzazione sociale più che individuale. E questa cosa qui, come dire, non mi serve nessun tipo di classifica poi da redigere. In questo, uno dei tentativi, se vogliamo, di socialismo reale, e con questo concludo, che effettivamente è stato fatto, cioè nella DDR, un minimo di differenza salariale c'era, cioè comunque una differenza tra il primario e l'operaio era riconosciuta. In questo senso, come riflessione personale, io non mi sento di dire che non sia giustificabile, perché comunque cioè se io chiedo a una persona di farsi carico di una responsabilità di tipo medico, cioè anche, come dire, fare delle scelte che hanno una conseguenza sulla vita di altre persone, mentre io dico no, io non me la sento, io preferisco fare un altro tipo di lavoro in cui mi impegno assolutamente, però non arrivo a dover rispondere di esigenze così alte, tutto sommato trovo anche giusto che ci sia una differenza, se vogliamo, di reddito, ma anche lì poi, cioè, stiamo pensando, stiamo immaginando, stiamo sperando di essere all'interno di una società in cui in primis sono garantiti a tutti i diritti di vivere. Cioè, in questo senso, e veramente concludo, cioè, mi gira nella testa che cosa significa, che significato diamo alla parola merito o all'essere meritevole di che cosa, perché la meritocrazia secondo me distingue tra chi è meritevole di avere dei diritti e chi non lo è, e quindi siamo al superamento e al peggioramento di quello che invece dopo la rivoluzione francese più volte citata erano i diritti dell'uomo, cioè lì si era arrivati a dire questo abbiamo tutti il diritto di averlo, qui invece no, qualcuno se lo merita, qualcuno no. Velocissimo. No, vorrei distinguere, cioè vorrei dire solamente una cosa, che è chiaro che in una società che funzioni e che sia un grado di complessità quale la nostra, è necessario che ci siano medici che sappiano fare quello che fanno, i migliori che sappiano fare quello che fanno, è necessario che ci siano ingegneri migliori che sappiano progettare un ponte funzionale che sia a bassissimo impatto ambientale, che funzioni, che non crolli. Il problema non è tanto nella selezione di chi andrà a fare queste cose, ma in nome di cosa, con quali presupposti e con quale scopo noi andiamo a selezionare questi individui e con quale tipo di cultura, quale tipo di cultura vogliamo far crescere individui, selezionare individui che facciano questo. Se la meritocrazia punta a selezionare persone che hanno come unico scopo il profitto, cioè uno scopo egoistico che può essere individuale, che può essere in una società, allora è questo il presupposto sbagliato in nome del quale stiamo costruendo un tipo di società. Se il presupposto invece è una società che deve funzionare, cioè uno scopo collettivo, allora la questione cambia, penso, no? Si fa tanto spesso il paragone con gli sport, per esempio, no? Mi è venuto in mente così a mo' di mezza battuta, io sono appassionato di ciclismo, tra le altre cose, diciamo così, ultimamente nel ciclismo molti corridori, tra quelli più famosi, importanti, non so, Pogacar, non so se qualcuno lo segua, hanno un modo di correre diverso e soprattutto quando se le danno di santa ragione in corsa, ma quando arrivano al traguardo si abbracciano e sono tutti amici. Ecco, questa cosa è una novità nel ciclismo, no? Perché fino a una decina di anni fa, quando arrivavano non si guardavano, c'era una rivalità, un sentirsi nemici che andava oltre la competizione sportiva. E guarda caso, uno che in questi giorni ha criticato questo nuovo modo di fare, che alla fine sono tutti amici, è un americano, Lance Armstrong, che tra l'altro si è visto revocare quasi tutto quello che ha vinto per doping. Cioè, siamo a questo paradosso. Ma... io volevo proprio rispondere a questa domanda che è uscita rispetto al come effettivamente vengono selezionate queste persone meritevoli, come viene impostata la meritocrazia e quali basi, quali presupposti richiede, diciamo, alle persone per accedere a quel livello di... La sociologia delle disuguaglianze, che è una branca che esiste da quando sostanzialmente esiste il vecchio Marx, ad oggi basa uno dei suoi pilastri di ricerca teorica su questo triangolo che è formato da tre punti cardine, che sono le origini sociali, l'educazione e i destini sociali e occupazionali. Quando si parla di origini sociali, ovviamente non si intende solo il genere, il reddito familiare, si intende anche, si parla di territori di nascita, ambienti di crescita, tant'è che nelle Invalsi, che vabbè, non entro nel merito della questione, però una delle prime domande che viene posta agli studenti che fanno le Invalsi è: quanti libri hai a casa? Perché è molto determinante per collocare ogni individuo all'interno di una posizione sociale. Il triangolo è collegato, mutualmente collegato, perché dalle origini sociali deriva poi l'accesso effettivo ai gradi di educazione. Si diceva prima che con gli anni l'educazione è diventata sempre più stratificata, sempre più a gradini, nel senso che per diventare un primario medico devi avere una triennale, una magistrale, un dottorato, un master, e sono cose che costano, cose che non sono scontate per soggettività che nascono in famiglie che non hanno potuto studiare, e che poi incidono direttamente a livello proprio statistico sui destini delle persone, sia occupazionali che, ma anche sociali. Ci sono delle stime di traiettorie di vita delle persone che la sociologia, di cui la sociologia dispone per calcolare in anticipo dove potrà arrivare una persona in base a quello che possiede in partenza. E questo secondo me è un tassello importante perché, come si diceva prima, a livello accademico è riconosciuta la disuguaglianza, è riconosciuto il fatto che il nostro sistema produca disuguaglianze, poi non mi dilungo, però anche prima della sociologia contemporanea diversi intellettuali, studiosi, politologi cercano di contestualizzare il modo in cui avviene la stratificazione sociale degli individui, e un punto di svolta importante è quando un sociologo, Bourdieu, teorizza il fatto che le persone, i destini sociali delle persone siano stratificate in base a quattro componenti, che sono la componente culturale, ovvero il tuo bagaglio culturale, quanto conosci, quanto studi, quanto impari anche dalla famiglia in cui nasci, me ne sono dimenticati il lato economico, il lato sociale, ovvero il portato di relazioni di cui una persona può disporre nel corso della sua vita per gli agganci, lo sappiamo, e il lato simbolico, ovvero il modo in cui le persone esprimono il proprio contesto, il proprio habitus di vita. E vabbè, al di là del fatto che fossero tanti, io me li sia dimenticati, è indicativo del fatto che non sono collocazioni casuali quelle in cui le persone finiscono, e soprattutto che basterebbe cambiare dei tasselli di vita delle persone sistematicamente per rivoluzionare le nostre aspettative di vita e per garantire una vita dignitosa alle persone tutte quante. Niente, prima cosa è, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, siamo qua. Nel senso, secondo me possiamo, se vogliamo, andare avanti, se no possiamo anche darci la buonanotte, bere al bar e piazzare un pochino tutto insieme. E prima di scioglierci, secondo me ci sono due cose da dire. La prima è che io sono molto felice di questa serata e mi è piaciuto moltissimo il fatto che ci fossero interventi vari di gente che studia, barra vive e fa cose molto diverse, quindi ci sono stati tanti punti di vista diversi e questo secondo me è un po' l'obiettivo che dobbiamo avere quando vogliamo imparare qualcosa di nuovo, nel senso probabilmente se avessi fatto questa discussione con Norbi che studia le mie stesse cose sarebbe stata con un solo punto di vista. Invece, visto che abbiamo avuto tanti punti di vista, credo che tutte abbiano imparato cose nuove, o se non l'ha imparato almeno ha detto bella, le so anch'io. Comunque era per dire che mi è piaciuto e spero che vi sia piaciuto. E l'altra cosa è che secondo me proprio l'obiettivo del studiare filosofia politica, che in realtà non è solo filosofia politica perché appunto è entrata in gioco la storia, la sociologia, varie rispetti antropologici, tante cose, anche un po' di economia, ma io non sono ferrata quindi non c'entro, ci hanno mostrato come è in realtà quello che dobbiamo fare, nel senso se è una società che diventa sempre più specializzata, una società che richiede un livello di istruzione sempre più alto, il modo per cercare di accedere a queste competenze, questi strumenti, senza per forza dover indebitarsi, dover entrare in determinate strutture, è farlo insieme, quindi non renderla un'attività individuale, non renderla un po' quello che ha prima detto Dario, ovvero che ogni individuo lotta per essere riconosciuto, ma che si lavora insieme per arrivare a determinate cose, o banalmente non vogliamo arrivare da nessuna parte ma abbiamo semplicemente voglia di passare una sera e chiacchierare di filosofia, che anche se non è una cosa produttiva è comunque una cosa piacevole, perché non è che dobbiamo fare sempre le cose produttive. Niente, quindi bacini a tutte e buona bevuta al Bardato. Grazie.